È possibile immaginare il futuro, disegnare gli scenari di un mondo segnato per certi versi stravolto dalla crisi. Ci ha provato il filosofo economista francese Jacques Attali, ospite della seconda giornata del Festival delle Città e Impresa. A Rovereto ha discusso di scenari non troppo lontani insieme all'imprenditore Riccardo Illy. Primo punto, l'Europa. Per Attali, se non si torna indietro da politiche disgreganti, l'Unione è destinata a implodere e l'euro ripete due volte a scomparire nel giro di 5 anni. Poi il capitolo crisi, Attali parla della necessità di reagire alle trasformazioni in corso, fare ordine e ancora avere sempre liquidità, innovare, rischiare, tasselli rivoluzionari per adattarsi alla rivoluzione. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore, Rovereto.